Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti al notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2024 in preparazione, info@siciliaLibertaria.it. Iniziamo dai misfatti clericali. E da Latina Todei, il prof di religione si difende, ero solo disponibile, nessun abuso sugli studenti, 14 luglio 2023. L'insegnante di religione del Majorana, accusato di violenza sessuale aggravata. Intanto è già stato sospeso sia dalla funzione di diacono che di professore di religione. Insomma, vedremo al processo chi ha ragione. Veniamo a retelabuso.org. La procura boliviana denuncia l'ostruzione della Chiesa nel caso della pedofilia clericale. 13 luglio, il procuratore generale della Bolivia ha denunciato questo martedì che c'è un ostacolo della Chiesa cattolica nelle indagini sulla pedofilia. E ciò non ci stupisce. Sempre retelabuso, 17 luglio. Abusa di un minorenne, chiesto il processo per un catechista. La Procura della Repubblica di Gela ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di atti sessuali su minorenne nei confronti di un animatore catechista, assiduo frequentatore, figura di spicco di una parrocchia della città. Dal Fatto Quotidiano del 14 luglio, Chiesa Cattolica, oltre 1 miliardo dall'8 per mille, i privilegi clericali. Da Focus, il mensile, di maggio o di giugno, adesso non mi ricordo più quale dei due mesi, insomma, chi era Ipazia? Ipazia di Alessandria fu una filosofa e matematica vissuta tra il 370 e il 415 d.C. Insegnante specializzata nella filosofia, elaborò personali teorie, unanimemente considerata una pioniera, ovvero la prima donna ad aver offerto contributi alla matematica. Piuttosto che indossare abiti femminili, era solita vestirsi come gli eruditi del suo tempo. E i monaci cristiani divennero motivo di accesi scontri, che ne contestavano la dottrina. Insomma, fu aggredita e uccisa in maniera brutale da una folla di fanatici religiosi, cristiani, cattolici, sempre loro gli assassini. Da Piazza Grande del Fatto Quotidiano del 14 luglio 2023, quella censura di Mineo, lo Chateau Lafitte del 58 e il processo Escort, e parla delle censure bigotte della RAI, in particolare della censura di un monologo del Decameron. Passiamo al caso Orlandi, Vaticano assassino, il cronista sentito dai PM, nessun sequestro. Morì dopo uno stupro evidentemente avvenuto da qualche malavitoso che c'era in Vaticano. Sempre sul caso Orlandi, il Fatto Quotidiano del 17 luglio. Vaticano assassino. Un ricatto che coinvolgerebbe la famigerata banda della Magliana e lo Ior mefitico di Paul Marcinkus. E quindi l'articolo contiene accuse contro i preti e i loro fautori. Fatto Quotidiano, Quotidiano Nazionale, il Giorno del 18 luglio, la ragazza scomparsa, il mistero d'Oltretevere, Vaticano assassino. Caso Orlandi, il giornalista detective, Ior e Solidarnosc, dietro la scomparsa. E qui c'è la foto del povero fratello della signorina scomparsa, che insomma da 40 anni invoca verità e giustizia, e speriamo che sia la volta buona, le trame oscure dei preti. Repubblica del 13 luglio, Lega, leghisti, filocrocifissi, assassini, cioè ladri, pardon. Nuova condanna per il tesoriere della Lega, a Diruba 2 anni e 10 mesi in abbreviato. Poi passiamo sempre al Giorno, Fatto Quotidiano Nazionale, del 19 luglio. Streghe in Valsassina, quindi si ricorda uno dei più grandi mostruosi crimini della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, cioè il rogo di migliaia di povere donne erbaiole di campagna accusate di stregoneria. Streghe in Valsassina, tavola rotonda. Il libro della settimana di Maurizio Marchetti, un libro del 2005, Urbi e sempre più orbi, Fabio Croce editore. Urbi et Semper Bi Orbi è un saggio anticlericale. L'autore mette in evidenza le contraddizioni della Chiesa cattolica minando le basi di molte sue credenze, la vera storia di alcuni tra i più santi cattolici, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, passiamo a notizie anticlericali vere e proprie. Intervista a Vincenzo Salemme, il famoso attore, regista, autore napoletano, e gli si chiede: lei ha il dono della fede? Non sono credente, solo speranzoso. Qui nega di essere cattolico. Quindi La Repubblica del 18 luglio 2023. Andiamo avanti con altri spezzoni. Allora, su mymovies.it è apparsa la recensione del film Rapito, un film destinato a provocare discussione e forse scandalo. L'associazione Luca Coscioni mi ha mandato una mail in cui davanti al Parlamento c'è una manifestazione genitori non criminali. E quindi una recente manifestazione davanti appunto alla Camera in difesa dei diritti contestati dai fautori della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Sul sito war.it ha ragion veduta, 2000 apostasie registrate sul sito sbattezzati.it. E una recente pubblicazione che da poco, insomma, si è arrivati a 2000 sbattezzi. Il governo Meloni riscuota l'ICI, imposta comunale sugli immobili non versata dalla Chiesa. E anche qui, sempre sul sito dell'UAR ha ragion veduta, uar.it, aiuti di Stato illegali, la Commissione europea impone all'Italia di procedere con il recupero. Poi, su Sicilia Libertaria, un articolo di Fra Dubbioso, Camillo Ruini, il cardinale che ha guidato la conferenza episcopale italiana col cipiglio di un crociato contro i diritti delle donne, omosessuali, minoranze religiose e laicità, in stretta complicità con il partito di Silvio Berlusconi e le destre estreme, alla morte di quest'ultimo ha officiato una messa per il Cavaliere, perché il Signore ha la sua misericordia, eccetera, eccetera. In questo periodo di santificazioni, quella di Silvio Berlusconi, auspicata dai suoi tanti beneficiati, la nuova Mission Impossible dietro l'angolo. Dopo i 3 giorni di lutto nazionale, l'intitolazione di strade e risotti, l'Italia qualunquista e fascista è pronta al grande passo. Bene, cari lettori, per il sottoscritto è giunto il momento di ricaricare le batterie in qualche spiaggia poco affollata. E Sicilia Libertaria uscirà di nuovo a settembre. Poi abbiamo la grande notizia che viene da Saronno. Il saronnese Don Guzzetti lascia il sacerdozio, annuncia sorpresa messe sui social. E vai, carissimo ex prete, che ti sei liberato dall'oppressione della Chiesa e sei diventato finalmente un uomo libero, che ogni mattina può andare dove gli pare, quando gli pare, fare sesso con chi vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Bravo Don Guzzetti. Poi andiamo avanti. Le streghe a Silo Gialetto. Andiamo avanti con un po' di confusione, oggi c'è molto materiale. Vincenzo Salemme l'ho letto. Passiamo alle disgrazie clericali. E sull'8 per 1000, pur essendo un privilegio, però le firme vanno diminuendo. Questa è una grossa disgrazia per la Chiesa. 8 per 1000, nuovo brutto colpo per le casse della Chiesa, dal sito war.it. Poi abbiamo il clamoroso suicidio di un prete pedofilo avvenuto nella Francia del Nord, suicidio di un prêtre accusé d'aggression sexuelle su un mineur, cioè aggressione sessuale su un minore. Un prete della parrocchia d'Avesnes-sur-Helpe Nord ha messo fine ai suoi giorni buttandosi sotto il treno. Era sotto processo per appunto casi di aggressione sessuale a minori. Le disgrazie continuano dal sito ilgiornaledivicenza.it. Cappuccini, messa finita. Il convento di Bassano del Grappa, o un altro Bassano, qui non è chiaro, c'è un altro Bassano in Veneto, probabilmente a settembre è inutile la mobilitazione della città, no? Quindi è proprio Bassano del Grappa. Il capitolo generale dei frati cappuccini, riunitosi a Mestre, ha deciso la chiusura del convento di Bassano del Grappa. Molto bene. Disgrazie clericali. 30 scout cattolici provenienti da Pescara sono finiti all'ospedale durante un loro campo sulla Maiella, malori al campo estivo. 30 scout cattolici intossicati, dal Quotidiano Nazionale del 17 luglio. Anche in questo caso l'angelo custode, i santi, non sono intervenuti a salvarli. Abbiamo dovuto, intervenire noi medici, che appunto, pur essendo in pensione, insomma, sono medico ancora. Il vento spazza via l'orologio della chiesa, vento anticlericale nel Gallaratese, a Santo Stefano. La chiesa ha avuto l'orologio completamente sfondato a Samarate. Fulmine anticlericale c'entra un gruppo di oratoriani in gita, due sedicenni gravi in codice rosso all'ospedale. Colico, uno folgorato al torace, l'altro centrato da un ramo del platano sotto cui si erano rifugiati. Quindi, insomma, per un pelo si è sfiorata la tragedia, però, insomma, già finire in ospedale in codice rosso è sicuramente una tragedia. Da sito Oltre Tevere, maltempo. Danni a una dal sito ansa.it, maltempo. Danni a una chiesa di Verbania, fulmine sul campanile, l'area completamente inagibile. 31 maggio 2023, fulmine anticlericale anche a Montà, in provincia di Cuneo, danneggiata una cappella della Via Crucis al Santuario dei Piloni, gravi danni alle strutture interne, distrutto l'impianto elettrico, colpita anche la Grotta dell'Agonia, eccetera, eccetera, insomma un disastro. Completiamo con qualche battuta anticlericale. Nei cieli non c'è nessun Dio Padre, nei cieli ci sono solo gas mortali e temperature freddissime. Saluti, auguri a tutti, buone vacanze e alla prossima puntata.